aspettavi, beh, questo è per te. Tienilo stretto come io ti tengo stretto a me, perché sei l'unica. Guai a chi ti tocca, tipa, perché non si tocca mica chi rischiando mi ha dato la vita. Tutto ciò che mi hai dato, tu sei la prima donna che io ho amato, la prima donna che io ho chiamato, la prima donna che io ho abbracciato. Tu sei più di tutto questo, sei la vita in persona, un angelo caduto in terra per renderla buona. E sei la migliore perché nulla ti manca, sei la più bella anche quando sei stanca. E mi chiedo come fai, hai la forza di amare, hai la forza nel cuore anche se il buio ti assale. Tu guarda avanti, prosegui il tuo cammino, ma sappi che avrai sempre sole a te vicino. Sai che vivo perché tu ora vivi per me, mi hai dato il tuo cuore tenendo nulla per te. Ma so che sai che dare la vita per te, e so che senza te un senso non c'è. Sai che vivo perché tu ora vivi per me, mi hai dato il tuo cuore tenendo nulla per te. Ma so che sai che dare la vita per te, e so che senza te un senso non c'è. Parlo di te, proprio di te, non meravigliarti se scrivo per te. Non basta per ringraziarti di ciò che fai, che hai fatto e che farai. Eccomi qua, mamma, sono il figlio pasticcione, quello meno bravo che stressa le persone. Non ci sono parole per dirti quanto sei importante. For me, sempre l'unica fra tante. Sai che vivo perché tu ora vivi per me, mi hai dato il tuo cuore tenendo nulla per te. Ma so che sai che dare la vita per te, e so che senza te un senso non c'è. Sai che vivo perché tu ora vivi per me, mi hai dato il tuo cuore tenendo nulla per te. Ma so che sai che dare la vita per te, e so che senza te un senso non c'è.